Se forse non ve ne siete accorti, ma da un giorno all'altro la politica italiana ha acquisito un nuovo protagonista, o se non proprio un nuovo protagonista, una nuova sigla, quella dei comitati di base per l'Assemblea Costituente, i COBAC, che hanno esordito giovedì scorso con l'ingegnosa proposta di referendum sull'istituendo la commissione bicamerale e si sono presentati in pubblico qui a Milano con una manifestazione ieri. Ecco, io non ho intenzione in questa sede di entrare in merito della loro proposta referendaria. Non vi starò a ripetere quanto è stato già detto da altri in altre più autorevoli sedi, che di referendum in programma ce ne sono già a sufficienza e non se ne può più, e che sembra anche un po' futile pronunciarsi presumibilmente a settembre su un organo di cui è prevista la scadenza a giugno. È vero, è tutto vero, ma è anche vero che se proprio si deve votare su qualcosa è meglio farlo sulle procedure di revisione della Carta Costituzionale che sull'abolizione del pubblico registro automobilistico, che non si sa neanche bene cosa sia, io non so bene cosa sia, ma se Pannella vuole abolirlo a qualcosa di buono deve servire di certo. In fondo, se qualcuno riuscisse davvero a portare il dibattito istituzionale alla base, tra i cittadini, sottraendolo a patteggiamenti, ai compromessi del vertice, sarebbe una gran bella cosa. Peccato soltanto che ben poco si possa sperare in merito da questa neonata organizzazione. Perché voi sapete cos'è un comitato di base, vero? È un comitato di base, ma qualcuno ricorderà con un pizzico di nostalgia le giovanili esperienze nei CUB, i comitati unitari di base appunto, o quelle nei COBAS, due organizzazioni che in tempi e ambiti diversi hanno contribuito non poco al rinnovamento e alla trasformazione della lotta sindacale e sociale nel paese. E un comitato di base nasce per opposizione a una realtà di vertice. Mette in discussione l'autorità e l'autorevolezza di dirigenti riconosciuti, chiama ad auto-organizzarsi i singoli militanti, i lavoratori, i cittadini, in nome delle proprie esigenze immediate, concrete. È una struttura implicitamente rivoluzionaria, anche se poi è fatalmente destinata a istituzionalizzarsi, e attraverso la quale si esprime una dirigenza politica nuova, si esprime o cerca di esprimersi una dirigenza politica nuova. Bene. E chi sono? Chi sono i nuovi dirigenti di base pronti a rivoluzionare attraverso i COBAC il quadro politico del paese? Eccoli lì. E sono nella foto a pagina 3 del Corriere di venerdì scorso. Sono da sinistra a destra Mario Segni, Francesco Cossiga e Carlo Scognamiglio. Sono lì con aria perplessa, impettiti davanti al simbolo della nuova organizzazione che raffigura non si capisce bene cosa, deve essere un emiciclo tricolore. Il loro sguardo sfugge all'obiettivo del fotografo. Hanno l'aria vergognosetta di chi non sa bene che atteggiamento prendere. Ed è ovvio, eh? Trattandosi di tre vecchi navigatori del vertice politico istituzionale, chiamati a firmare una proposta la cui possibilità di arrivare alla base, lo si capisce subito, sono praticamente zero, avendo solo l'unica funzione di fornire a Fini argomenti con cui premere su Berlusconi o a Berlusconi argomenti con cui premere su Fini, non lo so e non me ne interessa. Il desiderio irresistibile di tornare in pista vi ha spinti ad accettare questo ruolo non troppo decoroso, ma è chiaro che si vergognano. Nei loro panni, in effetti, mi vergognerei anch'io. E la base? Cosa c'entra? La base? Niente. Non preoccupatevi, la base non c'entra assolutamente niente, ha soltanto un valore eufonico. Capite, per portare avanti certe operazioni una sigla ogni tanto fa comodo. Un comitato è meno impegnativo di una lega o di qualche altra formazione politica più strutturata. L'Assemblea Costituente dovevano mettercela in un qualche modo per forza, e come dovevano chiamarsi, poveretti? Comitati per l'Assemblea Costituente suona CAC, cac, no, figuriamoci, in un paese di gente della battuta facile, non aliena dalle associazioni volgari, non è il caso. Allora recuperare la O di comitati, fare quack, no, neanche quack suona tanto bene, ha un suono sgradevole, un po' gutturale. Agli avversari più eruditi potrebbe ricordare il gracidio delle rane di Aristofane, sapete, quelle che accompagnano il viaggio di Dioniso nella palude Stigia con il loro incessante coax, coax, baba coax. No, è meglio metterci una B e non pensarci più. Peccato, eh? Perché l'immagine dei batracci immersi nel fango della palude dei trapassati, per Segni, Cossiga e Scognamiglio, non andava mica male. Hey. circa